Quindi la parola per l'intervento conclusivo del nostro seminario al segretario generale Rosina Panfelli. Preferisci quello, questo? Non so, mi sentite? Sì. Sì. Bene. Finiamo anche prima. Vediamo di... Non ci sono conclusioni da fare in un convegno di questo tipo. C'è il fatto di aggiungere qualche considerazione rispetto al fatto del, rispetto al nostro ruolo, insomma. Cioè, come sindacato, perché facciamo queste cose qua, insomma, no? Allora, questa è una prima cosa, e lo dicevo già all'inizio, questa esperienza dei seminari su alcuni temi, eccetera, eccetera, che abbiamo messo nelle nostre iniziative, nei nostri calendari negli anni scorsi, sono iniziative che tendono a divulgare più informazioni possibili su temi, questa volta sulle medicine, ma voglio dire, l'abbiamo fatto anche su altre. Io vengo da Alessandria, dove questa cosa qui con la dottoressa Cantù l'abbiamo fatta per anni, nel senso che per anni abbiamo fatto seminari sui vari temi, sulle malattie specifiche, su una serie di cose, insomma. E quindi, però vedo che anche altri territori stanno mettendo in campo e hanno messo in campo iniziative di questo tipo qui, di informazione. Quindi questo è un livello regionale in cui abbiamo il Consiglio Generale sostanzialmente. Poi è chiaro che i territori con le loro iniziative allargano la partecipazione rispetto al numero di nostri iscritti, nostri attivisti, che possono poi a loro volta nelle loro sedi sindacali, e sono tante le nostre sedi, voi lo sapete, non vi dico il numero perché poi vi spaventate, ma la nostra presenza può aiutare a dare anche informazioni maggiori rispetto a quelle che diamo tradizionalmente, cioè che sono il CAF, 730, le cose, eccetera, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista queste iniziative qui che facciamo si stanno voglio dire, ripetendo in molte province. Adesso molti lo fanno in occasione della festa delle donne dell'8 marzo perché parlano su temi del genere, e avanti di questo passo qua. Allora, e questa è una prima cosa importante, ma come sindacato, cioè, non c'è solo questo problema dell'informazione, che è già un passo in avanti, che noi lo facciamo, ma dovrebbero farlo anche altri. Si diceva prima la formazione, che diceva Daniele, quello che diceva il dottore lì, che si chiama Giustetto, scusate, no, cioè che le cose che si dicevano prima rispetto a chi informa, qual è il modo, eccetera, ci sono soggetti che dovrebbero farlo un po' di più, ma se si aggiunge anche la nostra, perché noi rappresentiamo un numero di utenti, chiamiamoli così, dei medici fra i più alti, siamo il sindacato dei pensionati, e quindi è chiaro che abbiamo fra le nostre file il numero degli utenti più alto che ci sia, perché ci siamo un po' allarmati. Nelle settimane scorse sono usciti i dati dell'Istat aggiornati al 2015, e quindi ognuno, poi ogni giornale, ogni televisione ha tentato di dare interpretazioni rispetto a questa cosa qui, no? Allora, due dati precisi, perché su questa cosa sono aumentati il numero dei morti, no? Cioè, dato, io c'ho tutto qua, i morti sono nel 2015, quindi 343.000 donne e 310.000 uomini, rispetto a 488 nascite in tutto, sono in aumento, eccetera, eccetera. E si sta facendo un allarmismo, voglio dire. Cioè, allora, da una parte abbiamo un'attesa di vita più alta. Le donne sono a 80, quasi 85 anni. Anche nel 15, eh? Nel 15 è diminuito. Ma sì, ma dello 0,1%. Comunque abbiamo un'intesa di vita fra i più alti in Europa, eh? quindi siamo dopo il Giappone, quindi più alti del mondo. Da una parte abbiamo un'attesa di vita di un certo tipo, dall'altra parte c'è allarmismo perché crescono i morti. E vai a vedere, il numero dei morti è prevalentemente fra i 75 e i 95 anni. Questa è la prima cosa. Ed è chiaro che più si invecchia, più c'è bisogno di cure, per tornare al ragionamento che facevamo prima, no? E quindi poi il ruolo di quali cure, come curarsi, eccetera, eccetera, che sono le ragioni del convegno. In una situazione, tralasciando il dato del Piemonte, che non voglio dirlo come ci troviamo, voglio dire, in una situazione in cui noi abbiamo un'attesa di vita più alta, abbiamo le proiezioni da questo punto di vista che fanno paura, nel senso che oggi, sempre dati Istat, il 22% della popolazione, cioè il 22% di 66 milioni di italiani, è ultra 65enne, il 22%, e la proiezione dice che andiamo al 30% nel 2050. Cioè, questo è il dato. Allora, se questo è il dato, 2 più 2 lo fa 1,5, lo fa meno, invece la sanità ha fatto meno. Perché se io allungo così, vuol dire che ho bisogno di più cure, ho bisogno di più strutture, parlando del ruolo nostro nel sindacato. Questo qui è un paese che ha 1.655.000 collaboratrici domestiche, di queste 1.000.000 sono badanti. Cosa vuol dire? Che le badanti del sistema pubblico e del sistema privato, non ci sono neanche più gli assegni di accompagnamento, non c'è ancora la legge del fondo per i non autosufficienti. Cioè, questi sono i problemi con cui dobbiamo fare i conti noi, nel senso che sono gli anziani, cioè 2 più 2 fa 1,5 per la sanità in Italia, abbiamo fatto questo calcolo qua, nel senso che dobbiamo ridurre i costi per tante ragioni, in una fotografia che va in questa direzione, perché questo è il dramma che abbiamo noi. Capite come, cioè, come sindacato noi dobbiamo vedere i problemi della tutela degli anziani da qualunque punto di vista, anche da questo punto di vista. Cioè, come ci orientiamo rispetto al nostro ruolo di contrattazione, rispetto alle controparti pubbliche su sanità e assistenza? Non lo ripeto, voglio dire, ma i temi che ho affrontato sono quelli lì, sono questi qua. I temi. In una situazione in cui abbiamo una regione che è in regime di rientro, voglio dire, come la regione Piemonte, capite che parlano di tagli, si parlava di servizi, voglio dire, no? Cioè, la roba che diceva il dottor Giusetto prima, i servizi televisivi, andare meno all'ospedale, fare i servizi televisivi. Cioè, è un accordo scritto con CGL e CISL di questa regione qui, con questo assessore qui, che i servizi territoriali devono essere contestuali alla chiusura dei reparti e alla chiusura dei reparti. Cioè, non ne ha fatto uno, forse ce n'è 1,5 che c'era già prima. Ne hanno pure tolto. Ecco, cioè, questa è la roba. Capite che dobbiamo tutelare una categoria che è così vasta, così piena di problemi. Però adesso ho drammatizzato per farmi capire, voglio dire, ci sono mille forme per fare risparmi e noi le abbiamo dette, voglio dire. Ne aggiungo una proprio perché siamo vicine all'8 marzo. Cioè, la medicina di genere è una cosa di più, nessuno ne parla, ma è uguale se uno si ammala di broncopolmonite, se è un uomo o una donna? Non è uguale. Cioè, si vuole, invece gli danno la stessa cura, sia l'uomo che la donna. Cioè, non c'è, è un tema nuovo, ragazzi, non spaventatevi, ma c'è uno spreco anche da questo. Cioè, se si praticasse un po' di più il discorso della medicina, nel senso che fosse un discorso discusso, visto dal punto di vista del genere, probabilmente si fanno delle cure diverse da quelle che si fanno oggi. Allora, cioè, l'ho buttato lì come problema perché è un tema vicino all'8 marzo a cui ci tengo, e che pochissimi ne parlano. Ne parliamo forse un po' noi del sindacato e basta, di questa roba qui della medicina di genere. Forse è nato un reparto a Cuneo, mi dicono, è vero o no? Sì, sì. È nato un reparto a Cuneo di medicina di genere. Funziona benissimo al Santa Croce di Firenze, e ha dimostrato che facendo la medicina di genere, facendo una serie di cose che non sto qui a elencare, ci sono grossi risparmi dal punto di vista dell'uso dei farmaci, dal punto di vista dei ricoveri, dal punto di vista della gestione anche economica di questa cosa qui. Ultimo problema che abbiamo come sindacato, che non possiamo far finta che non ci sia, anche se a noi ci interessa sì per delle valutazioni, però abbiamo una situazione a questo punto di vista qua. Da qualche tempo si stanno rinnovando i contratti nazionali di lavoro, bisogna saperlo questo, dei lavoratori attivi, in cui dentro i contratti ci sono pezzi di sanità, di welfare, chiamiamolo così, no? Di welfare aziendale. Ora, questa cosa qui, alcune grosse aziende ce l'hanno sempre avuti, altre lo stanno facendo, l'hanno scoperto adesso, qualche azienda ha scoperto che questa roba qui aiuta anche il rapporto con il lavoratore. Ci sono una serie di ragioni per cui il welfare aziendale è importante, eccetera. Noi qualche preoccupazione ce l'abbiamo, perché il 90% di questi accordi fatti nazionali nel contratto o aziendali nelle grosse aziende sono di tipo soggettivo, nel senso che riguardano un intervento che va a favore del singolo. Allora, c'hai la mamma alla casa di riposo? Bene, ti do il 50% della retta. C'hai il figlio che va all'università? Ti pago i libri di testo. Vai a fare la visita privata? Ti pago il medico privato. Ti convenziono con il laboratorio privato che fa le analisi dove devi fare le liste d'attesa. Allora, questa è una roba bellissima. Sono molto contenti i lavoratori che lavorano in quelle aziende. Però questo qui aumenta le differenze e le discriminazioni fra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Quante sono le grandi aziende che si possono permettere welfare aziendale? O l'80% in questo paese dei lavoratori è nelle piccole e medie aziende che questa roba qui non ce l'hanno? Tornano le mutue. Allora, questa roba qui è una discussione che dobbiamo aprire dentro a casa nostra, dentro al sindacato, perché sono sindacalisti che stanno facendo queste cose qua. Dobbiamo aprire questa discussione in casa nostra. Allora, noi non diciamo come pensionati che non bisogna fare la contrattazione anche, ma se di tipo sociale. Allora, se la Volteggio, però di un'azienda che abbiamo, o la Pirelli o l'altro, quello che fa il Richard, come si chiama? L'Oreal. Sì, quella che è, quello che allora, hanno bellissimi accordi aziendali dal punto di vista del welfare aziendale. Se questi fanno un asilo pubblico o danno un contributo per costruire un asilo pubblico e i propri dipendenti sono agevolati rispetto agli altri, però c'è un asilo pubblico di quartiere, di città, di rione, eccetera, questa è un'altra cosa. Allora bisogna dire che o c'è un collegamento fra welfare aziendale e il welfare collettivo pubblico, il welfare collettivo pubblico, quello sanitario, quello scolare, tutto, altrimenti non ha senso, facciamo di nuovo delle grandi discriminazioni. Ultima battuta, ma è una battuta, voglio dire, anche se... Sì, non ti ho ancora battuto. Che strano, non mi tira per la giacca. Allora, ultima battuta rispetto a questa cosa qui del pubblico e del privato. Che cosa sta succedendo, no? Fra le altre cose? Facendo la fotografia che facevamo prima dei nostri anziani che vanno dove chiudono gli ospedali e non aprono gli servizi alternativi, voglio dire. Succede, facevo una battuta a Gigi Barelli prima, dice, non si curano i denti, non si curassero solo i denti sarebbe una cosa. Cioè, no, se uno ha da fare degli esami e ha 6 mesi di lista d'attesa, non solo sui denti, ma per fare gli esami, ed è preoccupato, uno che ha i soldi va dal privato se fa fare quell'esame lì. Comprese le tasse, guardate che c'è gente che si sta pagando le tasse. E sono, io personalmente ne conosco molti più di uno. Le tasse, no? Perché ci sono. Allora, noi stiamo facendo un monitoraggio in qualche zona, viene già fuori, su sta cosa qui, e la gente non si cura più. La gente non si cura più, questa è l'altra cosa. Allora, noi abbiamo quelli che hanno la pensione al minimo, non sono in grado di andare a fare, no? O aspettano 6 mesi e muoiono prima qualche volta, oppure devono andare nella struttura privata, come facciamo tutti noi, Io addirittura non vado neanche più a vedere quanto tempo devo aspettare, vado direttamente alla struttura privata, faccio prima e pago tanto uguale. Questa è un'altra cosa. Ma chiuso la battuta, anche questo, ho fatto questi esempi qui per capirci, perché noi abbiamo un'altra drammaticità dentro questa roba, che molti anziani che non hanno i soldi non si curano, cioè si curano meno. Allora, su sta cosa qui noi dobbiamo dire qualcosa in più, perché se no, anche perché abbiamo presente bene, lo chiedo a Melis che va a parlare con l'assessore ogni tanto, quando è di luna, cioè, dove sta andando la sanità? Cioè, il sistema pubblico è così garantito o ci sono minacce di altro tipo? Cioè, io non mi scandalizzo del sistema privato, c'è già, cioè, ho detto, ci sono 1 milione di badanti anche in nero, quindi buona parte anche in nero, quindi figuriamoci se che mancano le strutture. Ma o noi ci mettiamo d'accordo prima con le istituzioni, che non è che noi vogliamo demonizzare il sistema privato, anzi, ben venga, purché non si arrivi agli eccessi come c'è in Lombardia, voglio dire, no? Noi abbiamo in Piemonte il contrario della Lombardia, insomma. Però il pubblico garantisce il controllo vero di quello che fa il privato, se no non fa la convenzione, se no non si convenziona, oppure non possiamo permettere che ci sia un privato selvaggio che fa quello che vuole. Cioè, ci deve essere un sistema anche misto, anche con la presenza del privato, ma controllato dal pubblico. C'è bisogno di questa cosa qui, ce l'abbiamo chiara, Melis, quando andiamo a discutere in regione. Altrimenti oggi ognuno va, fa quello che vuole e non c'è controllo magari. Cioè, comunque molto meno rispetto al passato, rispetto alle convenzioni. Quindi queste sono, cioè, l'elenco dei problemi che noi abbiamo come sindacato, oltre a quello di avere un rapporto con la gente, con tutte le informazioni che possiamo dare rispetto al merito che è venuto fuori in questo convegno e che verrà fuori nei prossimi convegni. abbiamo anche un insieme di questioni che riguardano dove va la sanità in Piemonte o in Italia. Questo è l'altro problema che... E dobbiamo stare all'occhio, pensiamo. Cioè tenete i vecchietti in giro svegli su sta cosa qui, la dico così per dire che prepariamoci a qualche altro momento di mobilitazione, sapendo che oggi ci sono delle difficoltà economiche vere, nessuno le nasconde, però se si prende una piega che è quella del controllo comunque del pubblico, se si prende una piega in cui ci sono, nonostante le difficoltà, ma i tempi di attuazione dei servizi sostitutivi dei reparti che si chiudono, degli ospedali che si chiudono, allora prendiamo la strada giusta. Ma se non c'è questa strada, noi non possiamo stare fermi. Cioè il problema della salute rispetto a chi rappresentiamo e rispetto alle prospettive dell'aumento di queste persone qui, voglio dire, è troppo importante. Quindi questa è la roba importante che dobbiamo tenere presente. La questione del rapporto con i nostri, ma il rapporto con la contrattazione che dobbiamo fare con le nostre controparti. Aggiungo, c'è la regione, poi a scalare tutto il sociale, parte economico, perché ormai il sociale all'80% è in mano ai comuni, perché gli altri non sono più in grado di fare niente. Nei comuni si può cominciare a rivedere anche il modo con cui noi facciamo contrattazioni rispetto a come si sta nelle case di riposo, quanto sono le rette, le cose, eccetera, eccetera. Questi sono, sono i problemi che abbiamo. Quindi io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio soprattutto i nostri ospiti, ringrazio la dottoressa Quadrino, il dottor Pente e la dottoressa Cantù per averci portato il loro contributo a questo seminario. Grazie a tutti e arrivederci.